adesso possiamo iniziare. Allora, buongiorno, ciao Gino, ti salutiamo qui dall'assemblea di Marghera. Vogliamo iniziare naturalmente con te subito, immediatamente, e iniziando anche l'assemblea in questo senso, con la denuncia e l'appello per Rahmatullah Hanefi, che è il local staff di Emergency, che ancora è nelle mani dei servizi segreti afghani. Vorremmo denunciare insieme a te e chiederti di farlo con noi, appunto, questa situazione che naturalmente si è scaricata addosso ad Emergency dopo naturalmente anche la vicenda Mastro Giacomo, e soprattutto per il ruolo che Emergency ha all'interno di questo quadro della guerra, insomma un ruolo anomalo e volutamente di non collaborazione da questo punto di vista con chi la guerra la propone. Beh, la cosa che mi sembra fondamentale è che Rahmatullah Hanefi stava lavorando, anzi facendo il volontario non retribuito per il governo italiano, nel portare a termine un'operazione decisa dal governo italiano in accordo con il presidente Karzai. Io credo un'operazione ragionevole, perché credo sia sempre ragionevole cercare di salvare la vita umana di chiunque. Questa cosa va riconosciuta, e quindi una cosa deve fare semplicemente il governo italiano: chiedere ufficialmente come governo al governo afghano di rilasciare immediatamente Rahmatullah Hanefi, perché stava lavorando per il governo italiano e per un accordo preso. Vorremmo che questa cosa fosse ufficiale, ma anche che fosse pubblica, perché non ci fidiamo della politica. Perché quando due presidenti del Consiglio, o presidenti o primi ministri, si parlano, poi probabilmente si dicono cose diverse da quelle che ciascuno di loro poi riferisce alla stampa e ai cittadini. Vorremmo capire bene cosa si dicono, perché ci sono ovviamente dei problemi di rapporti tra questi governi. E entrambi, insomma, sono un po' come il personale di casa, per così dire, no? Ecco, sono in condizioni diverse rispetto al padrone. Certo. E questo credo sia la difficoltà ad assumersi in un modo dignitoso le proprie responsabilità da parte del governo italiano. Senti Gino, approfittiamo del fatto di averti con noi, così in la possibilità di parlare con te. Abbiamo definito, o stiamo definendo, l'Afghanistan come un nuovo laboratorio della guerra, sostanzialmente, purtroppo, perché questo aggiungerà vittime e tragedie a un quadro della guerra globale, insomma, che già è pesantissimo, visto appunto l'Iraq e viste tante altre situazioni. Che cos'è la guerra in Afghanistan per voi che la vivete da lì e ci siete dentro? Ma sai, la guerra cambia poco, proprio questa forma di crudeltà esasperata, volontaria e preordinata, che si esercita soprattutto sui civili. Sono impressionanti le storie dei feriti che stiamo ricoverando in questi giorni, soprattutto nell'ospedale di Lashkarga. Il più piccolo, diciamo, vittima della guerra al terrorismo, a 18 mesi, purtroppo è morto. La guerra è questo. Quello che preoccupa è quando ci si abitua alla guerra e ormai si sceglie la guerra come rimedio per tutti i mali. Siamo di fronte a una crescente militarizzazione, basta aprire i giornali e sono pieni di articoli deliranti sui Predator, gli elicotteri, le armi sempre più aggressive che vengono poi spacciate come difesa dei militari, perché l'unica cosa che conta è portare a casa la pelle dei militari, cioè lasciarli uccidere impunemente. E questo è molto preoccupante. Noi stiamo andando a passi veloci verso la barbarie e io non vedo nessun argine da parte della politica. Ecco, introduci questo tema della politica, che appunto è la massima espressione in questo momento, secondo noi, anche nel quadro italiano, in realtà di un'antipolitica, cioè nel Parlamento italiano c'è l'antipolitica, perché ci sembra di vedere appunto addirittura utilizzata la guerra più per questioni di equilibri interni nazionali, di governi, che per quello che è, cioè una tragedia, è una cosa assolutamente inaccettabile sul piano, su tutti i piani, perché costruisce anche un mondo che è inaccettabile. Come giudichi anche questo dibattito italiano che ha portato poi al sostegno della missione militare italiana in Afghanistan? Ma non lo so, io sinceramente non sono un appassionato dei dibattiti della politica italiana, anche perché a mio modo di vedere la casta politica italiana, da Bertinotti a Pino Rauti, ha un comune denominatore, che è quella del servilismo rispetto agli Stati Uniti. Su questa cosa non c'è discussione, sono d'accordo tutti, ed è questo che ci crea tra l'altro le difficoltà presenti in Afghanistan, perché il padrone si è arrabbiato, insomma, e diciamo che il cuoco ha litigato con l'aiuto cuoco, ecco, non sono cose che devono succedere in case per bene. Certo. Questa cosa è preoccupante perché il servilismo rispetto a chi ha scelto la guerra e a chi sta facendo guerra e a chi ha promesso guerra per i prossimi 50 anni e chi ha promesso di ribaltare il pianeta, peraltro a quel paese che insomma nei suoi 250 anni di storia non ha fatto guerra giusto qualche weekend, e questo è preoccupante. Io speravo che insomma l'Italia fosse un paese che volesse vivere in un modo diverso dalla logica dei Rambo, delle bombe o del portare le armi a scuola per i bambini degli elementari. Purtroppo vedo che non è così. Ecco, l'ultima diciamo domanda, giusto perché ci aiuti anche nel nostro dibattito di oggi. Credo che la vicenda di Rahmatullah spieghi come sia una anomalia essere presenti all'interno di un quadro di guerra, però conservando un'autonomia. Cioè, credo che la vicenda di Rahmatullah spieghi sia un attacco poi a che cos'è emergency e a come fa ad essere emergency all'interno di quel tipo di quadro, in cui invece sembra che bisogna essere tutti o da una parte o dall'altra, non ci sono anomalie. Certo, siamo sicuramente un'anomalia. Anche Rahmatullah è un'anomalia, adesso si trova nelle mani dei servizi segreti del governo, nel 2001 fu arrestato dai talebani. Io credo che, come dire, la neutralità e l'indipendenza siano condizioni fondamentali per poter lavorare efficacemente, e sono anche quelle condizioni che poi creano credibilità. Noi non prendiamo parte per nessuno di chi ha deciso di usare la violenza, anzi cerchiamo di lanciare messaggi diversi. Questa cosa disturba molti, così come disturba che un'organizzazione umanitaria riesca a favorire e a condurre con un successo anche parziale, perché non è stato un grande successo totale la liberazione degli ostaggi, un ostaggio è stato assassinato, un altro ancora nelle mani dei sequestratori, ma insomma il fatto che un'organizzazione umanitaria riesca in un'operazione del genere, cosa che non sarebbe stata possibile per la politica, per via degli impedimenti tra i rapporti politici, questa cosa disturba, però noi non crediamo che sia la gente di Emergency che debba pagare il prezzo di tutto questo. Certo. Senti Gino, noi ti ringraziamo molto, ti abbracciamo e ti chiediamo anche di far giungere a tutti gli attivisti di Emergency il fatto che oggi siamo qui in assemblea, ma siamo vicini a voi e a chiunque sia un'anomalia nel mondo della guerra. Vi ringrazio, ciao. Buon lavoro e teniamo duro. Teniamo duro, ciao Gino, grazie. Ciao, grazie. Ciao.